Cieli, digito fior da Verzenis, scritti nella parlata caratteristica della sua vallata, ci presenta un efficace quadro di figura, di ambiente e di patriarcale amore della famiglia. Aven, aven la nei, cidina, ma il purnal prova plui la paz di un ghiaccio, che volta al sglinghignava il ciadenaccio, che volta i murosavi la tunina. Lassù, dal fogolar di Biazzo Pari, un uomo d'invierte ser, d'està pastor, i lavi in moscardin, a palamor, no c'è in certo per me smettiar amari. Un fu lusinte clar, una sflamada, e intanto che il zuf buliva tal brunzin, c'è udissimi in fregone di chialin, i davi tic e tac, una bussara. C'è biel che il timp lontano su minuto, da Vierta i lavi in Austria, a Linz, a Graz, e poi i tornavi a Iodi Lux a Mar, il fu, il chiadenaz, la tomusuta. Ti pensi tu in che l'anno metunina, che l'anno chi si sintolsa d'inti sans, che volta ieri in giovins, ieri in sans, cumò la muart non sbala più vicina, la muart che i cencia cur non nos perdona, e insum mi ha detto che in breve nos sciolarà. Signor, faset che con chi sin di là, i verbi simpli a plank la me parona. Il novembre non ci poteva suggerire migliore lirica della Gnot dai Sans, ancora di Giuseppe Marchetti. In essa l'autore, con commovente richiamo, ci fa riaccostare nella notte dei defunti ai nostri cari scomparsi. C'è scuro Gnot, un scur fis e pesante che quasi al fas fastidi alla indenante. E ti parvi palpalu e che disfate qualche anime e svolite fumate. E sun in la lor liende li schiampanis, e son li doglie e parin tan lontanis, con che lor vos che preva in e il bot si slardi a plant, tan pende e gliela gnotte. Ti rinsi in chiase, il fogolar nus clame con la luz e il calor che fa la flame. Ma ci mutese mai, e mur in gole la peraule, si tas e si pendole. E veni su dal cur giucci riguard dai nestri sviei di chiase, che son muarti. Al parares di dì, che vanno a torte strade, a scur, ci rin la chiase lor. Non si alza il saltel, no saltel, no saltel, no saltel, qualcheduna di essi entra. La nome, il barbe, il frati muarti muere, e fere, e torni in duc a chiase queste sere. Si tiri in donge, si tiri in donge, ciri in lu la che il plaseve sta, vicin dal fu. Il nono al pense, dute la famene, sumo il rosari, e al volte la chiadrena. abbiamo trasmesso a cura di Ermete Pellizzari. Presentazione edizione poetica di Ottavio Valerio. Ottavio Valerio.